Allora, Casablanca in Marocco, una città che non deve essere più la stessa da quando se n'è andato Humphrey Bogart, una studentessa universitaria è stata condannata a morte dai suoi compagni di studi perché non usa portare il velo secondo i precetti islamici e a stento si è salvata da un tentativo di linciaggio. L'ambasciatore italiano arabo Giuseppe Pannocchia ha confermato la notizia, facendo però notare che ad agire in tale deprecabile modo sono soltanto ristretti, sia pure ben organizzati, gruppi di integralisti. A Gerusalemme, invece, la compagnia dei trasporti municipale ha consentito alla richiesta dei gruppi ortodossi di porre fine allo scandalo rappresentato dalla frequenza di uomini e donne sullo stesso autobus. Sì. Comporta un grave nocumento alla modestia, al self-control sessuale, per non dire che secondo quegli ortodossi lì è sempre meglio evitare i contatti con le donne perché sono impure loro. D'ora in poi in quella città i mezzi di trasporto urbani saranno divisi per sesso. Sembra che il governo israeliano e le autorità cittadine non fossero del tutto favorevoli, ma non hanno potuto farci niente, dovendo tener conto della forza politica dell'integralismo ortodosso. A Teheran, infine, dove l'integralismo notoriamente è di casa, il ministro della cultura ha promulgato, in nome dei principi religiosi, il decreto che vieta alle donne di compiere gli studi all'estero. Un suo portavoce ha giustificato la cosa dicendo che le donne nell'Iran godono già di molti diritti, sono molto meglio protette che in altri paesi, ma non per questo devono venire considerate come delle persone indipendenti, e ci mancherebbe altro. Ecco, sono tre notizie, tre esempi di integralismo raccolti in data recente. Risalendo con la memoria ne ricorderete voi stessi quanti altri volete: i guai della compagna Claudia Schiffer, quelli di Salman Rushdie, la campagna terroristica a danno dei turisti in Egitto, quella a cui a rimetterci le penne sono sempre dei poveracci egiziani di passaggio, l'usanza algerina di fare il tiro al bersaglio sui diplomatici stranieri, i sacri macelli di Kabul finalmente libera dal giogo marxista e tante altre manifestazioni di pietà religiosa non esattamente in linea col pensiero moderno. E che il problema naturalmente non riguardi solo il terzo mondo lo sa chiunque abbia avuto occasione di frequentare il pensiero di Karol Wojtyła, del cardinale Ratzinger. È vero che in Italia di solito le autorità religiose si limitano a un linciaggio morale, ma che certe loro pretese in tema di morale sessuale, di finanziamento alla scuola, di diritto alla vita o cose del genere, che queste loro pretese siano una manifestazione di integralismo, lo dicono in parecchi. E credo che sia nozione corrente quella che tra le minacce che incombono su questo nostro povero mondo, quella di integralismo non sia la meno grave, quella dell'integralismo. Però, se ci pensate bene, è strano. Perché in fondo essere integralisti non dovrebbe esserci nulla di male. Anche chi non nutre particolari propensioni ideologiche in merito dovrebbe avere qualche difficoltà a accettare come negativa questa categoria. Il termine integralismo esprime una pretesa all'integralità, a cui nessuno dovrebbe avere niente da ridire. Che chi accetta un sistema di pensiero voglia aderirvi integralmente, nella sua interezza, senza rinunce o compromessi imposti dall'esterno, è una pretesa piuttosto ragionevole, semmai è quella opposta, quella di aderirvi solo fino a un certo punto, che sembra un po' più strana, tanto più quando il sistema di pensiero in questione è la cogenza della fede religiosa. Le norme che bisogna rispettare per conquistarsi il paradiso sono già tante e complesse, e non vale la pena di fregarsi la vita eterna per un malinteso spirito di tolleranza, che nell'uso corrente la tolleranza grosso modo è la categoria antitetica a quella di integralismo. E lo spirito di tolleranza non è affatto ideologicamente neutrale, non si può chiedere a tutti. Storicamente è il frutto della riflessione illuminista sulla storia europea, se ricordate il trattato sulla tolleranza di Voltaire, e in quanto punto di vista caratteristicamente laico è stato combattuto a lungo dalle religioni positive, dalle loro strutture. Chiedere a uno spirito religioso di farlo proprio, in un certo senso, è un invito all'autocontraddizione, che non è mai una cosa simpatica da chiedere a qualcuno. Ma guardate che il discorso non riguarda soltanto gli spiriti religiosi. Un punto di vista laico, lo spirito di tolleranza, non è un universale morale valido per tutti. È una caratteristica specifica della nostra cultura. e molti atteggiamenti normalmente definiti come integralisti sono riconducibili alla a una problematica più ampia, quella della diversità di cultura e di tradizione. Ma il fatto è che di fronte alle diversità culturali noi viviamo una situazione ideologica contraddittoria. Nessuna persona ragionevole oggi sente di poter dire che la cultura europea occidentale, pur diffusa com'è in tutto il mondo, goda di una particolare superiorità sulle altre. Ci sentiamo responsabili del modo con cui è stata diffusa, della protervia con cui per tanti secoli abbiamo considerato inferiori e diversi, e poi i risultati che abbiamo ottenuto non sono tali da inorgoglirsi, no? D'altro canto restiamo affezionati a un certo numero di valori in essa più o meno contraddittoriamente affermati, e agli altri siamo disposti a lasciare la loro diversità a patto che le sue manifestazioni non contraddicano troppo patentemente a quei nostri valori. Per cui, per farla breve, che le famiglie delle ragazze maghrebine immigrate in Francia polemizzano con le locali autorità scolastiche per ottenere il permesso di indossare il chador in aula, è successo lo scorso autunno, va benissimo, di solito, anzi è una lotta che va sostenuta e incoraggiata a pie fermo, tanto più che rappresenta una contraddizione affatto secondaria nella nostra consuetudine socioculturale. Che in Maghreb una ragazza non possa smettere il chador senza rischiare il linciaggio di solito ci sembra un pochino più problematico. Però non possiamo far finta di ignorare che ai soggetti interessati la seconda situazione può sembrare altrettanto normale che la prima. In fondo, i valori in base ai quali noi stabiliamo la distinzione, non so, la libertà del singolo, anche se di genere femminile, l'inopportunità di imporre forzosamente dei comportamenti di testimonianza religiosa e simili, sono valori nostri, non loro. E chi afferma che tutte le culture hanno pari dignità ma censura certi comportamenti perché sono contraddittori con il suo sistema di valori si caccia, sia pure per il migliore dei motivi, in una contraddizione da cui non riuscirà più ad uscire. L'ambiguità del termine integralismo in fondo rispecchia proprio questa contraddizione, che poi è quella di chi non ha niente in contrario a che gli altri facciano tutto quello che vogliono a patto che non dia fastidio a lui. Forse varrebbe la pena di riflettere su come certe affermazioni di rispetto per gli altri siano soltanto espressioni della propria cattiva coscienza e su come sarebbe più semplice se lasciassimo perdere certi stupidi eufemismi e chiamassimo le cose con il loro nome. A proposito, non so se abbiate qualche familiarità col De rerum natura di Lucrezio. Nel primo libro, il poeta, subito dopo la protasi e la dedica, vuole tranquillizzare i lettori eventualmente timorosi di avviarsi alla conoscenza di una dottrina morale deprecabile, come l'epicureismo era considerato a Roma di solito, e argomenta che la turpitudine morale non è necessariamente legata a un punto di vista razionalista e materialista. Infatti, dice, anche in nome della religione si possono commettere azioni deprecabilissime. E cita un esempio, traendolo dal repertorio mitico, il sacrificio di Ifigenia, che era stata immolata dal padre alla dea per ottenere che la flotta potesse felicemente salpare dal porto di Aulide. È un brano famoso in cui la vecchia leggenda viene reinterpretata con sensibilità e pathos moderni. Agamennone è tutto angosciato, i sacerdoti che nascondono il coltellaccio dietro la schiena, gli astanti in lacrime, e la fanciulla che credeva fino a quel momento di essere stata convocata davanti a un altare per sposarsi, comprensibilmente turbata. A tanti delitti, conclude il poeta, poté spingere la religione. Tanto un religio potuit suadere malorum, è un verso molto famoso e molto ripetuto in seguito. Ma state attenti. Ricordo che quando io leggevo Lucrezio al liceo, qualche annetto fa, i miei insegnanti e i libri in adozione si guardavano bene da tradurre in questo modo. Assicuravano che a spingere a tanti delitti era la superstizione, termine con cui caldamente si raccomandava di tradurre il religio del testo, tenendo molto più conto dell'esigenza di non offendere nessuno che quella di rispettare il vocabolario. E 30 anni dopo ho scoperto che la pratica non è affatto estinta, ma vige in molti licei, per non dire dei principali commenti in uso. E volendo, certo, la si può giustificare tutto, no? In fondo è indubbio che sgozzava una vergine per ottenere una navigazione felice è un gesto alquanto superstizioso, e chiunque può sostenere che la religione è tutt'altra cosa. Probabilmente Lucrezio non aveva la minima idea di tracciare una distinzione del genere, ma chi se ne frega. Quando che si ha a che fare con la religione, anche nella scuola pubblica e laica, è meglio muoversi con cautela. Di fronte alle contraddizioni, in mancanza di meglio, si ricorre sempre agli eufemismi, ma forse, visto che il termine di superstizione evoca un vago sentore di polemiche ottocentesche, si potrebbe più modernamente tradurre che a tanti delitti potrebbe spingere l'integralismo.